Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Via libera della Camera alle misure anti-Covid, Consiglio dei Ministri riunito per la proroga dello stato d'emergenza. Boom di contagi negli Stati Uniti, 7 milioni e mezzo. L'immunologo Fauci, il focolaio della Casa Bianca, si poteva evitare. Polemica intanto tra democratici e repubblicani per gli aiuti all'economia. Trump, dopo la mia vittoria, un piano di stimolo. Biden, così, volta le spalle agli americani. Premio Nobel per la chimica, Charpentier e Doudna, le scienziate del taglia incolla del DNA, nuovo metodo di ingegneria genetica. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. È slittato ad oggi il Consiglio dei Ministri per il varo del nuovo decreto con le misure sul Covid dopo l'inciampo di ieri, come sapete, quando è mancato il numero legale per il voto sulla risoluzione di maggioranza, voto che è arrivato oggi, Consiglio dei Ministri riunito proprio in questi minuti. Facciamo il punto con Teresa Trillò. Buongiorno, il Consiglio dei Ministri è in corso da circa un'ora ed è chiamato a prolungare fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza per il Covid e ad approvare anche il nuovo decreto legge con le misure, con le norme generali anticontagio con l'uso anche della mascherina all'aperto. Ieri, come dicevi tu Alessio, alla Camera per mancanza del numero legale è saltato il voto sul via libera al nuovo DPCM. Via libera è arrivato questa mattina con 253 sì e 5 no alla risoluzione di maggioranza che impegna il governo a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio e a provvedere anche affinché su tutto il territorio nazionale sia introdotto l'obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto e per l'intero arco della giornata. Le opposizioni non hanno votato e secondo le bozze del nuovo decreto circolate fino ad ora la mascherina all'aperto si dovrà portare sempre con sé, ma si dovrà usare quando ci si avvicina a persone non conviventi. Niente mascherina invece quando si fa sport o attività motoria ed esentati anche i bambini al di sotto dei 6 anni e persone con disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina. Per ora da Roma è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Teresa Trillò, vi aggiorneremo nel corso di Effetto Giorno quando sarà terminato il Consiglio dei Ministri. Il focolaio di Covid alla Casa Bianca si sarebbe potuto evitare, così l'immunologo americano Anthony Fauci, membro tra l'altro della task force dell'amministrazione americana a proposito della pandemia, ha detto: è qualcosa che non possiamo ignorare. Mentre il presidente Donald Trump, appena uscito dall'ospedale, è tornato a dire che il coronavirus è meno letale dell'influenza. Le vittime negli Stati Uniti sono arrivate però a oltre 210.000. In Europa anche il Belgio stringe la cinghia, chiusi per un mese bar e caffè di Bruxelles. Il focolaio di coronavirus alla Casa Bianca avrebbe potuto essere evitato ed è la prova che la pandemia non è una bufala. Lo ha detto ieri l'immunologo membro della Task Force contro il Covid, Anthony Fauci. Per il presidente, tuttavia, l'influenza è più letale del virus. Parole quelle di Trump censurate da Twitter e Facebook perché fonte di una informazione potenzialmente dannosa. I casi nel paese hanno superato quota 7,5 milioni, con 210.886 decessi. Particolarmente difficile la situazione a New York, dove il governatore Cuomo ha disposto la chiusura delle attività non essenziali e imposto nuove restrizioni. Resta critica anche la situazione in Brasile, dove i contagi stanno ormai toccando quota 5 milioni, e in India con 6,75 milioni di contagi. In Europa nuova stretta a Bruxelles. Caffè e bar chiuderanno da domani mattina per un mese. Resteranno invece aperti i ristoranti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di Trump di sospendere le trattative sui nuovi aiuti all'economia. Dopo la mia vittoria ha detto: approveremo una grande legge di stimolo, ma per lo sfidante democratico Joe Biden, così Trump ha voltato le spalle agli americani. Premio Nobel per la chimica a Emmanuel Charpentier, francese, e a Jennifer Doudna, britannica, le due ricercatrici che hanno messo a punto la tecnica del taglia e incolla del DNA. Sentiamo. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Chemistry. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma ha annunciato il Premio Nobel della Chimica 2020. È stato assegnato alla francese Emmanuelle Charpentier e all'americana Jennifer Doudna per lo sviluppo di un metodo per l'editing del genoma. Questa è la motivazione. Charpentier e Doudna hanno scoperto uno degli strumenti più importanti dell'ingegneria genetica, la tecnologia CRISPR. Sono anche dette forbici genetiche o bisturi. Questo metodo permette ai ricercatori che le utilizzano di modificare, di cesellare il DNA di animali, piante e microorganismi con estrema precisione. Questa tecnologia ha avuto un impatto rivoluzionario sulle scienze della vita e sta contribuendo a nuove terapie contro il cancro e alla cura delle malattie ereditarie. Due donne dunque, sono sette in totale le donne che sono state insignite finora del prestigioso premio. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca, torniamo in Italia. Maltempo oggi, allerta arancione in Emilia Romagna per la piena del Po, allerta gialla in altre 12 regioni per piogge e vento forti. È salito a 9 intanto il bilancio delle vittime in Liguria. Dopo il caso Juventus-Napoli c'è un nuovo intervento della ASL, questa volta nei confronti dei giocatori proprio della Juventus. Parliamo delle norme anti-Covid, naturalmente. Giocatori della Juventus che, secondo la ASL di Torino, avrebbero violato l'isolamento per raggiungere la nazionale. Anche la nazionale Under 21 è costretta a fare i conti con le norme anti-Covid. Due dei calciatori in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione agli europei con l'Islanda sono risultati positivi. L'allenamento previsto per oggi è stato annullato e da ieri la squadra si trova in isolamento fiduciario. A Torino intanto la ASL ha fatto sapere che segnalerà alla procura i calciatori della Juventus che hanno violato l'isolamento al quale la squadra era sottoposta in un albergo dopo la conferma della positività di due persone dello staff esterno. I giocatori coinvolti sono Betancourt, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, partiti per raggiungere le rispettive nazionali, ma anche Buffon e Demiral, che sono invece tornati a casa. Lunedì la società aveva segnalato alla ASL la volontà dei sette di interrompere l'isolamento, una decisione per la quale rischiano ora una multa da 400 euro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'indomani della modifica dei decreti sicurezza si torna a parlare di un centro di accoglienza per migranti, per una rivolta scoppiata all'interno di quello di Agrigento. Vetri rotti, materassi incendiati, tre poliziotti feriti e alcuni migranti in fuga. È successo nella notte nel centro di accoglienza Villaggio Mosè di Agrigento, dove circa 65 migranti, in prevalenza tunisini, erano in quarantena anti-Covid. Secondo le testimonianze raccolte dalla stampa locale in attesa di informazioni dalla questura di Agrigento, la rivolta sarebbe scoppiata ieri pomeriggio dopo la notizia di alcuni positivi all'interno del centro. I migranti avrebbero tentato la fuga calandosi dalle finestre, mentre nella notte è scoppiata la rivolta con lanci di estintori, reti e parti di finestre contro gli agenti di polizia e con l'incendio di alcuni materassi. Tre i poliziotti rimasti feriti e due migranti. Sei persone sarebbero riuscite a scappare. Quasi sempre, denuncia Walter Mazzetti, segretario della Federazione Sindacale della Polizia, i migranti rifiutano di rimanere in quarantena. Le rivolte e le fughe sono continue e noi poliziotti non siamo numericamente in grado di affrontarle né abbiamo protocolli chiari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo all'estero per parlare del conflitto al confine tra Azerbaigian e Armenia. Nagorno in russo, sapete, Karabakh in azero, Artask in armeno, una enclave di 150.000 persone, vasto quanto il Molise, da una settimana al centro di un conflitto che da 30 anni avvelena i rapporti tra cristiani e musulmani nel Caucaso meridionale. Ora il problema però sono gli sfollati, quasi metà della popolazione. Dopo una settimana di attacchi da parte dell'Azerbaigian sull'enclave separatista, quasi il 50% della popolazione del Karabakh, l'Artasakh per gli armeni, è stata costretta ormai a sfollare, la maggior parte di loro verso il territorio della Repubblica di Armenia e lungo l'unica strada di montagna rimasta aperta. La piccola capitale dell'autoproclamata Repubblica del Nagorno-Karabakh, Stepanakert, è stata nuovamente bersaglio dei bombardamenti delle truppe di Baku per tutta la notte appena trascorsa. A intervalli irregolari, quasi ogni ora, le sirene d'allerta hanno risuonato per la città immersa nell'oscurità. Il bilancio dei danni e delle vittime non è al momento conosciuto, ma è chiaro invece che l'Azerbaigian, forte di un sostegno mai così esplicito della Turchia, è ormai deciso a riconquistare i territori perduti nel 1993, quando dalle repubbliche sovietiche nascevano gli stati attuali, con in dote il loro carico d'odio irrisolto. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24. 4 ore. Lutto nel mondo della musica, addio ad uno dei grandi del rock, morto ieri in California a 65 anni, il leggendario chitarrista fondatore dei Van Halen, Eddie Van Halen, considerato uno dei più virtuosi di sempre. Qualcuno lo ha definito il Paganini della chitarra elettrica. Nella classifica della nota rivista musicale Rolling Stone è all'ottavo posto tra i 100 migliori chitarristi di sempre. La leggenda del rock è di Van Halen, di origini olandesi, ma emigrato con la famiglia negli Stati Uniti a soli 7 anni, si è spento a Santa Monica, in California, dopo una lunga battaglia contro il cancro. La musica è la sua passione sin da piccolo, anche grazie al padre Jan, sassofonista e clarinettista jazz di Amsterdam. Inizia con la batteria e il pianoforte, ma a 12 anni scopre che la sua vera passione è la chitarra. Studia con il fratello Alex, che presto però passa alla batteria, e assieme a lui, al bassista Michael Anthony e al cantante David Lee Roth, alla fine degli anni 70 dà vita alla leggendaria band dei Van Halen, che si afferma subito sulla scena musicale internazionale. L'album 1984, col celebre singolo Jump, fa storia: in un solo anno diventa 5 volte disco di platino. Poi nel 92 arriva il Grammy e nel gennaio del 2006 i Van Halen vengono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Grande fumatore, combatteva da tempo contro un cancro alla gola. Nonostante ciò, non ha mai smesso di suonare con grande energia, anche insieme al figlio Wolfgang, che dal 2006 era il nuovo bassista dei Van Halen e che su Twitter ha scritto: «È stato il miglior padre che avrei potuto chiedere. Il mio cuore è spezzato». Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 12 minuti, facciamo un piccolo break, Effetto Giorno torna subito dopo con tutte le altre notizie, ripartiremo dalla scuola, siamo alla quasi quarta settimana compiuta, c'è una buona notizia, l'Istituto Superiore di Sanità dice i protocolli stanno funzionando, i casi di trasmissione sono limitati. 349-238-6666, a tra... Effetto Giorno. Ecco le notizie di oggi. Via libera della Camera alle misure anti-Covid, in Consiglio dei Ministri la proroga dello stato d'emergenza. Contagi in crescita negli Stati Uniti, 7,5 milioni. L'immunologo Fauci sul caso Trump dice: il focolaio della Casa Bianca si poteva evitare. Premio Nobel per la chimica alle scienziate del taglio e incolla del DNA, l'origine di un nuovo metodo di ingegneria genetica. Scuole alla quarta settimana per il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, la trasmissione tra studenti e insegnanti è molto limitata. Ne parliamo tra poco. Tredici e 16 minuti, eccoci qua in diretta con Effetto Giorno. Queste le parole usate dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro su Twitter: la trasmissione di Covid-19 negli studenti e nel personale scolastico è strettamente monitorata, a oggi risulta molto limitata, i protocolli stanno funzionando, continuiamo a lavorare con il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute perché i ragazzi vadano a scuola. È una buona notizia, diciamo, è la certificazione istituzionale anche di quello che un po' ci stiamo accorgendo tutti noi, genitori con figli, ma chiunque, insomma, alla quarta settimana ci sono stati dei casi, ma le scuole che hanno dovuto fermarsi sono circa un centinaio, possono sembrare tante, ma non sono tante rispetto a quanti erano invece i timori della vigilia. C'è un monitoraggio che viene fatto da due giovani ricercatori, che parla di 1175 scuole, 1175 scuole su oltre 8000 scuole, 40000 istituti complessivamente in Italia, con casi, 1498 persone coinvolte, e appunto solo un centinaio le scuole che hanno dovuto fermarsi per un giorno. Tutti gli altri casi si è riusciti ad andare avanti. Ne parliamo con Susanna Zaccaria, assessore alla scuola e educazione del Comune di Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Abbiamo scelto Bologna anche perché avete appena annunciato la, come dire, il passaggio successivo, insomma il completamento dell'offerta formativa per le primarie con il pre e post scuola. I genitori di bimbi piccoli sanno di cosa stiamo parlando, cioè prima dell'orario per chi ha bisogno e anche dopo, sempre per chi ha bisogno, diciamo con un'espressione brutta, di parcheggiare i figli, ma anche nel caso del post scuola di fargli fare le vere e proprie attività extrascolastiche, ma comunque di carattere educativo. Di questo ne parliamo tra un attimo. Io le voglio chiedere se, diciamo, anche lei mi conferma questi dati, il primo bilancio di queste prime quattro settimane, come sono andate a Bologna? Sì, confermo ovviamente per il territorio di Bologna che ci sono stati diversi casi, però i tamponi successivi sono stati tutti negativi all'interno delle scuole. Questo ci dice che le misure funzionano e che probabilmente sono casi che arrivano più da fuori, ecco, non contagi che avvengono a scuola. Quindi io confermo quello che è stato detto e insomma sta andando abbastanza bene, lo dico con calma, però insomma per ora bene. È importante anche quello che diceva lei, no? Che la scuola sta diventando, potrebbe diventare anche un luogo di sanità pubblica, nel senso che con l'attenzione che si fa per esempio con la misurazione delle temperature e insomma, l'attenzione che c'è nel rispetto dei protocolli, appena c'è un caso scatta anche il sistema di tracciamento dei contatti, per cui per esempio sempre da questo sito che monitora le cose nella scuola apprendiamo che 106 volte sono nati dei focolai a scuola che poi sono stati controllati naturalmente, altre 90 volte invece il contact tracing non ha trovato altri positivi, quindi diciamo è la conferma di quello che in qualche modo ci diceva lei, cioè i protocolli nelle scuole diventano addirittura un ausilio per la sanità sul territorio. È possibile vederla anche in questi termini? O è troppo ottimistico? No, assolutamente, invece io condivido perché ci arriva insomma dal controllo, anche dalle verifiche, dai confronti che abbiamo nelle nostre scuole, il fatto che c'è l'esatto rispetto dei protocolli, quindi quello è senz'altro una sede dove c'è molta rigidità, cioè addirittura adesso un po' quasi scherzando si dice che è il posto più sicuro è diventato, ecco, perché c'è molto molto rispetto di tutti i protocolli, ed è inutile, al di là di tutte le polemiche, questi protocolli funzionano, cioè i dispositivi funzionano, se si tiene la mascherina, si sta attenti, se si lava le mani e si sta lontani, il Covid non si trasmette, quindi è importante. Ecco, anche alla luce di tutto questo forse si poteva avere un pochino più di coraggio magari anche nei mesi scorsi e tentare di anticipare un po' questa ripartenza, forse anche fra maggio e giugno, chissà, questo però diciamo è un forse un rammarico, ma adesso non ha molto senso. Senta, invece con l'inserimento del pre e post scuola, a questo punto che avete appena annunciato, a Bologna si può dire che per le primarie la scuola torna come era l'anno scorso, a tempo pieno? Sì, allora finalmente anche noi riusciamo a ripartire, iniziano da domani le prime scuole a fornire i servizi integrativi che sono fondamentali per le famiglie, infatti sono importantissimi, noi siamo ben coscienti, cioè il Comune di Bologna da subito ha detto che avrebbe attivato questo servizio, ci abbiamo messo un po' proprio per il ragionamento che facevamo prima, perché chiaramente diventa un po' più pericoloso perché questo servizio viene svolto per bambini di classi diverse. Quindi la famosa bolla. C'è un intreccio tra le bolle, esatto, in questo caso. Esatto, esatto. Quindi dovevamo trovare delle modalità che garantissero di non pregiudicare un po' tutta la sicurezza. E come avete fatto? Avete trovato una soluzione a questo? Sì, diciamo che intanto è una questione di spazi, per cui noi avendo tante scuole sul territorio, alcune avevano già risolto il problema perché hanno degli spazi adeguati, sono un po' in difficoltà le scuole che invece avevano dovuto utilizzare tutti gli spazi possibili per garantire la metratura delle aule, rappresenta tutto il problema degli certo. spazi inizialmente era come facciamo a far stare i ragazzi, quindi diciamo alcuni possono già partire, per altri invece noi dobbiamo garantire comunque dei gruppi stabili, quindi sapendo sempre chi usufruisce del servizio, che non sia di tante classi diverse, quindi fare dei gruppi di alcune classi e poi dove proprio non si riesce a tenere sempre la mascherina per questi periodi e il distanziamento di almeno un metro. Uh-huh. Diciamo noi abbiamo ci siamo confrontati con la regione sulle linee guida per trovare delle modalità anche per le situazioni che erano un po' più critiche, ed effettivamente le abbiamo trovate, così da domani possiamo ripartire. Ecco, senta, lei accennava la questione degli spazi, no? Degli spazi necessari in più quest'anno per le scuole. Ci può dare una misura di quante scuole a Bologna hanno necessitato di spazi extra, se è in grado di darci un'indicazione, una percentuale, vista la preoccupazione che c'era la vigilia, che era enorme? Sì, la preoccupazione era veramente tanta. In realtà con gli interventi di edilizia leggera che abbiamo fatto nelle scuole, in sostanza tutte le scuole hanno gli spazi all'interno, cioè non abbiamo dovuto trovare degli spazi fuori dalle questa scuole. È Bologna, naturalmente non vale per tutti, però no, parliamo certo, anche di una città grande, di migliaia di studenti e diverse decine di scuole. Senta, un'ultima cosa gliela voglio chiedere, Assessore, per quanto riguarda il concorso in vista il 22 ottobre e anche in relazione alla carenza dei vuoti d'organico, della carenza di docenti che c'è stata anche alle scuole primarie, tra l'altro, in molte città. Questo concorso creerà qualche disagio? C'è aspettativa invece d'altra parte? Guardi, il problema del personale è cronico e quindi in realtà cioè si è sentita quest'anno ancora più degli altri anni, però non è certo una novità, no? Questo tema purtroppo ce lo portiamo dietro da tanto tempo. Io spero proprio che non crei disagi, ma spero che vada incontro un pochino alle necessità che alcune scuole anche sul nostro territorio hanno, e la questione è effettivamente urgente e importante. Io voglio essere ottimista e voglio accogliere un po' l'impostazione che è stata data, insomma con anche la conferma di farlo alla fine di questo mese. Io spero proprio che invece sia, voglio vedere il lato positivo, ecco, sperando che ci si riesca ad andare un po' incontro, perché questa carenza, a cui purtroppo noi in nessun modo possiamo dare soluzioni, invece pesa tuttora sulle scuole, ed è un anno in cui invece ci sarebbe bisogno di ancora più personale, quindi insomma si è amplificato un problema che ci portavamo dietro da tanto tempo. Giusto, va bene, grazie Assessore Zaccaria, grazie per essere stata con noi. Vedremo, questo era il punto sulla questione scuola, è la notizia di partenza, è la notizia data all'Istituto Superiore di Sanità che dice fondamentalmente i protocolli stanno funzionando, i casi di trasmissione tra studenti e docenti, il personale, tutti quindi considerati, non solo i docenti ma anche tutto il personale della scuola, sono molto limitati. Benissimo, avanti così, speriamo che vada avanti così. Adesso invece apriamo una finestra su una notizia di carattere scientifico e ambientale, perché oggi il Copernicus Climate Change Service, che fa riferimento a un programma dell'Unione Europea, programma Copernicus, è uscito con una notizia a proposito del buco dell'ozono, una questione che pensavamo in qualche modo risolta, perché effettivamente la questione del buco dell'ozono nella stratosfera, la nostra barriera naturale protettiva contro i raggi ultravioletti, si era ridimensionato negli anni passati. Ebbene, torna ad esserci un allargamento di questa falla nella zona dell'Antartide. Sentiamo Cristina Carpinelli. Il buco dell'ozono ha raggiunto la sua massima estensione annuale ed è uno dei maggiori degli ultimi 15 anni. Le concentrazioni nella stratosfera sono arrivate a valori vicini allo zero in Antartide, il che significa anche la massima riduzione dello scudo naturale che protegge la Terra dalle radiazioni ultraviolette potenzialmente dannose. Ma che cosa ha determinato questi valori? Lo abbiamo chiesto a Francesco Cairo del CNR. Quest'anno il vortice polare antartico non è stato particolarmente perturbato da onde lanciate dalla meteorologia delle medio-basse latitudini, e quindi il confinamento dell'aria stratosferica sopra l'Antartide quest'anno è stato particolarmente efficace. In ogni caso sono variabilità intrinseche nel sistema atmosferico, cioè da dire che nonostante sia molto largo quest'anno il buco dell'ozono sull'Antartide, è purtuttavia sempre più piccolo di quello che si sarebbe avuto se non si fossero implementate le strategie di riduzione del cloro in stratosfera attuate dal protocollo di Montreal in poi. Non è ovviamente una buona notizia questa di un buco dell'ozono così largo, però perché non lo è? Perché il cloro già immesso in atmosfera rimarrà lì per decenni, però questa particolare importanza del buco dell'ozono quest'anno fa parte di una variabilità naturale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È alle 13:27:30, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno, tutte le altre notizie. Ripartiremo dall'attesa per il Consiglio dei Ministri che è riunito proprio in questi minuti per il via libera del nuovo DPCM e cercheremo quindi anche di analizzare le novità, principalmente riguardano le mascherine, ma ci sono anche altre cose relativamente alla app Immuni, per esempio. Si va avanti con lo smart working, come cambiano le sanzioni, i paletti alle regioni. 349-238-6666, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Via libera della Camera le misure anti-Covid con l'obbligo di mascherina all'aperto. Consiglio dei Ministri riunito per la proroga dello stato d'emergenza. Polemica tra democratici e repubblicani per gli aiuti all'economia. Trump: dopo la mia vittoria arriverà un piano di stimolo. Biden: così volta le spalle agli americani. E intanto per l'immunologo Fauci il focolaio della Casa Bianca si poteva evitare. Premio Nobel alle scienziate del taglia incolla del DNA che apre la strada a una nuova ingegneria genetica. Eccoci qua, di nuovo in diretta. I vostri messaggi al 349-238-6666 al volo. Grazie da Milano, dice, il protocollo della scuola funziona? Si domanda. A Milano i casi di studenti positivi sono raddoppiati in una settimana. Questa è crescita esponenziale, ma è chiaro che questa notizia non la darete mai. Dice grazie da Milano. Abbiamo appena letto il tuo messaggio, grazie. Una crescita, un raddoppio in una settimana non è una crescita esponenziale dal punto di vista, diciamo, matematico, ma insomma, al di là di questo, almeno non mi sembra, non sono un esperto, ma non mi sembra. Ci sono due ricercatori che stanno monitorando, gli unici in Italia, quanti casi ci sono nelle scuole, e i dati ve li ho forniti poco fa, 1000 e quanti sono in 4 settimane, 1400 se non sbaglio. Poi ognuno può fare le valutazioni che vuole. Abbiamo detto che secondo l'Istituto Superiore di Sanità la situazione è sotto controllo. Vedremo chi ha ragione. Speriamo loro, non diciamo chi in questo momento è più preoccupato, perché naturalmente nessuno vuole che questo succeda. Adesso invece andiamo rapidamente al punto di Alberto Rioli, oggi dedicato a temi economici come la contrattazione sindacale. Il punto di Alberto Rioli. Nel giorno in cui riparte in grande stile la trattativa per il contratto dei metalmeccanici, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, la mitica NADEF, ci avvisa che il governo punta sul salario minimo e lo affiderà a un disegno di legge collegato proprio alla legge di bilancio. E sono 22 quest'anno ed è un record. Imprese e sindacati si interrogano su come ancorare al meglio gli aumenti salariali di questa anomala stagione pandemica e studiano finalmente anche un credibile percorso di aggancio alla produttività. Del resto l'inflazione è pressoché zero e non aiuta a distribuire aumenti salariali, quindi bisogna battere nuove strade. Ma non per questo la strada da seguire è il salario minimo per legge, soprattutto in un paese dove le relazioni industriali sono un sistema nervoso, molto diffuso e radicato, con oltre 800 contratti e una presenza sindacale che è la più numerosa d'Europa. Fissare una soglia per legge rischia di squilibrare il sistema proprio nel momento in cui sta cercando di raggiungere faticosamente un nuovo assetto. Fissare poi quella soglia troppo in alto potrebbe comportare a catena un impatto sui salari, con esborsi non compatibili nel momento in cui le aziende sono alle prese con l'emergenza Covid. E a quel punto l'unico risultato del salario minimo sarebbe quello di aver ridotto l'occupazione. È con noi il professor Pierluigi Lopalco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Assessore designato alla sanità per la regione Puglia. Lopalco, con lei siamo in attesa del Consiglio dei Ministri, che in realtà doveva già esserci stato, doveva iniziare alle 11, è slittato a mezzogiorno, sta durando forse un po' più del solito. C'è l'attesa per il varo della proroga dello stato d'emergenza e il nuovo DPCM con le misure che sono state anticipate. La risoluzione è stata già votata questa mattina alla Camera. La novità principale è l'uso della mascherina anche all'aria aperta. Lopalco, io le chiedo questo: cosa ne pensa? Perché fino ad oggi ci avevate detto che all'aria aperta, se si sta a più di un metro e mezzo, due metri di distanza, non c'è bisogno di mascherina perché l'aerosol si disperde nell'aria, al contrario di quello che accade al chiuso. Invece adesso arriva questa prescrizione. Come dire, è cambiato qualcosa nelle conoscenze che abbiamo o è un segnale di massima sicurezza che si vuole dare? No, le conoscenze sono quelle e non cambiano. Purtroppo questi interventi, divieti, obblighi eccetera, intervengono quando purtroppo ci si rende conto che un messaggio di prudenza non viene accolto, cioè nel momento in cui il cittadino autonomamente non riesce a gestire il proprio atteggiamento di prudenza, a quel punto è giusto anche che intervenga l'autorità dicendo: a questo punto si fa una regola semplice che tutti capiscono e che è indirizzata al massimo livello di prudenza. Questo perché? Perché appunto c'erano tanti segnali che purtroppo in situazioni di assembramenti che sono sempre stati vietati, ma a quanto pare questo messaggio non è stato recepito, in situazioni all'aria aperta in cui c'erano dei gruppi di persone che erano ammassati e senza mascherina fuori dai locali, ora con la riapertura delle scuole, fuori dalle scuole ancora vediamo i ragazzi ammassati che non portano la mascherina. A quel punto si fa una regola molto semplice da capire, molto semplice da controllare: mascherina per tutti. Ecco, però Lopalco, stamattina stavo guardando un telegiornale e c'erano inquadrati contemporaneamente la conduttrice in studio, naturalmente senza mascherina, ci mancherebbe, e l'inviato per strada, che appunto adesso già in ossequio, in anticipo del nuovo DPCM, già con mascherina. Però questa cosa mi sembra che accada spesso, cioè in tanti uffici, in tanti posti anche pubblici, se c'è spazio anche all'interno, se non si è troppo vicini, io vedo tante persone senza mascherina. Non si arriva al paradosso che dentro gli uffici è ammesso stare senza mascherina perché abbiamo spazi ritenuti sufficienti, invece poi fuori ci ritroviamo con la mascherina, quando invece è il contrario che dovrebbe essere, o no? Allora, guardi, anche all'interno il ragionamento di non tenere la mascherina se si è in presenza di altri non è corretto. Se si è in presenza di altri o c'è un'adeguata ventilazione. Io però le sto dicendo quello che vedo, perché il ragionamento è corretto, anche secondo me all'interno è più doveroso che all'esterno, però capita spesso di vedere, come dire, in base a quelle che sono le prescrizioni anche nelle aziende, negli uffici pubblici, mascherina obbligatoria se si è vicini, se si è distanti, se due scrivanie sono lontane a 3 metri, le persone non usano la mascherina, però all'esterno sarà obbligatorio. Non è un controsenso? Ma comunque all'esterno dobbiamo adesso vedere il testo finale del DPCM. All'esterno, insomma, se si è da soli in un luogo isolato dove non ci sono altre persone, ovviamente non ci sarà bisogno, immagino che ancora non ho letto il testo, immagino non ci sarà bisogno di avere la mascherina se si è in un luogo senza altre persone intorno. Il principio è che se abbiamo persone intorno, sì, a quel punto la mascherina è d'obbligo. Il concetto che la parola che è stata inserita nelle bozze del DPCM è la prossimità, se si è in prossimità di altre persone e anche con l'aspetto dei non conviventi. Prima si parlava di congiunti, per esempio anche amici, adesso invece conviventi, quindi diciamo in prossimità di non conviventi scatterebbe l'obbligo all'aria aperta. Questo è quello che è scritto nella bozza. Il principio è quello, è chiaro che se io convivo in casa con delle persone non ha senso che insieme a queste persone, se vado a fare una passeggiata al mare, metta la mascherina, questo è fuori luogo. Però se sono sul lungomare affollato, la mascherina è d'obbligo. Senta, un'altra, stiamo facendo così un po' diciamo di obiezioni preliminari a questo che comunque a tutti gli effetti diventerà sicuramente la norma principale del DPCM in corso di approvazione, la mascherina. Le faccio sentire anche quello che ha detto l'infettivologo, suo collega Bassetti, a proposito di un altro rischio, che diciamo omologare tutte le regioni possa deresponsabilizzare quelle più a rischio davvero. Fare un provvedimento uguale non va bene, siamo da nord a sud, ci sono regioni in cui è bene probabilmente stressare ulteriormente l'uso della mascherina, la Campania, probabilmente la Liguria e qualche altra parte italiana, mettere una misura per tutti uguale non vorrei che finisse di far scendere la tensione sull'importanza di questa misura anziché alzarla. Quello che sta succedendo per esempio in Campania credo che sia una situazione che deve in qualche modo, non dico allarmarci, ma certamente farci rendere conto che le cose non vanno proprio benissimo. Ecco, questa è la Bassetti stamattina dal nostro Simone Spezia. Che ne pensa di questa possibilità? Allora, penso che in questa fase della pandemia è normale che ci siano dei disallineamenti, cioè nel senso che ci possono essere delle aree, e non parliamo neanche di regioni, alle volte sono delle province, province a maggiore incidenza, province a minore incidenza, però l'esperienza ci dice che oggi, e in assenza ovviamente di un vero e proprio lockdown, prima o poi il problema di una provincia sarà il problema di un'altra, il problema di una regione sarà il problema di un'altra, quindi ad un certo punto cercare di fare delle misure, mettere in atto le misure che siano omogenee in termini di prevenzione potrebbe essere una buona idea comunque. Io la ringrazio professor Lopalco, grazie per essere stato con noi e tra l'altro ci sarà oggi pomeriggio poi il passaggio anche nella conferenza con i presidenti delle regioni e i ministri, insomma Boccia, ministro della Salute e Speranza, per diciamo allineare questo DPCM proprio ai territori. 13.45, break, torniamo tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.